Va bene, io per adesso mi fermerei qua perché sono già andato oltre il tempo che mi è stato concesso e non so se ci sono alcune domande che spero di essere stato abbastanza chiaro, anche se non completo, perché avrei dovuto parlare ancora di alcune serie del SIM conservate all'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito che attualmente non sono consultabili e un accenno anche a documenti non consultabili dell'Ufficio Storico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Grazie mille perché ci sono mostrato come siano materie molto complicate, ma secondo me anche tremendamente importanti, sia per quanto riguarda i problemi giudiziari, sia per quanto riguarda i nostri problemi storici. Per cui è difficile, cioè, mi rendo conto che è una materia molto spinosa, però noi quando abbiamo pensato questa lezione sapevamo che era, voglio dire, un argomento molto complesso, però è importante. Perché sono questioni di cui non si parla veramente mai e di cui poi non si capisce, perché lei alla fine adesso accennava al discorso della questione Abu Omar, che è l'ultima che è emersa, e che però, voglio dire, riprende tutto un filone di problemi legati al segreto di Stato, che invece per quanto riguarda i nostri argomenti è un punto fondamentale. Io lascerei, se qualcuno ha domande, ovviamente può farle, io ne ho alcune, ma aspetto voi. Sì. Abbiamo fatto già laboratori di artistica, secondo me qualcosa mi era più chiaro, però adesso la domanda è: uno storico che vuole affrontare la verità, capire un po' la verità degli anni 60, parliamo dal 64 al 74, quindi alla luce di quello che lei ha detto, quanto può fare affidamento sugli archivi? Perché fra documenti che sono spariti, documenti che non sono mai stati inseriti, segreti super segreti che servono per coprire responsabilità di impunità di tipo istituzionale, allora lo storico come fa? Fino a che punto può avvalersi questi archivi? Fino a che punto può dire che sono affidabili? Quelli che poi sono accessibili? Perché il problema era anche questo nella lezione di oggi, capire se questo strumento dell'archivio può servire allo storico. Facendo tutta questa ricostruzione, diciamo, di segreti, super segreti, documenti tolti, non so, alla fine mi viene qualche dubbio. Parliamo proprio di questo periodo, dal 64, parliamo anche dal 69, perché la nostra attenzione in queste ultime lezioni si è concentrata un po' sugli avvenimenti che vanno dal 69 al 74. Allora, come la mettiamo? Cosa deve fare lo storico di fronte a questi articoli? Quanto si può essere utile? Io non so quanto sono in grado di rispondere a questa domanda, però potrei dire che almeno per una prima fase della storia dell'Italia repubblicana e dell'esistenza, diciamo, pressioni, apparati volti a tenere sotto controllo, sotto stretto controllo la fragile democrazia del nostro paese, almeno per una prima fase di questa storia, direi fino, penso sostanzialmente agli eventi del 1964, cioè al piano Solo e l'attività del generale De Lorenzo. Una parte della documentazione archivistica comincia a essere consultabile e fruibile da parte degli storici. Mi riferivo prima all'inchiesta parlamentare sugli eventi del giugno e luglio 64. Effettivamente la documentazione diciamo, oggi consultabile, vuoi dalle pubblicazioni della Commissione, vuoi dai documenti stessi, permette di ricostruire un quadro abbastanza preciso, non solo dei protagonisti di questa intentona o tentato golpe oppure avviso di golpe, ma anche sui rapporti, forse con la sfera, diciamo, politica, con la sfera più politica. Anche l'attività della loggia massonica P2, presieduta dal venerabile Gelli. Beh, è vero, non sono, o sono difficilmente accessibili forse i documenti prodotti dai servizi di informazione, i prodotti, oppure i documenti delle indagini giudiziarie, però la documentazione prodotta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta è notevole e si tratta qui anche di documenti, di riproduzione di documenti, per cui è possibile, come dire, che è possibile per lo storico di operare non solo su una letteratura di, diciamo, sulla letteratura esistente, ma anche su fonti primarie in qualche misura. È vero, poi le vicende più recenti, o una parte delle vicende più recenti, su questi lo storico ha difficoltà tuttora a, diciamo, fare delle indagini documentalmente verificabili, verificate. La strage di Ustica, forse lo stesso caso Sindona, che peraltro si intreccia con gli eventi della P2. Alcune delle stragi del periodo diciamo, più drammatico degli anni della strategia della tensione, cioè il periodo 69-74. Diciamo, su questi eventi effettivamente la documentazione disponibile agli studiosi è ancora molto limitata e bisogna rifarsi anche in parte o a libri scritti da coloro che diciamo, hanno avuto un accesso privilegiato alle fonti. Questo è un problema perché questi possono essere volumi, diciamo, scritti con molta coscienza e scritti molto bene, con molta onestà intellettuale, però basati appunto su documentazione che non è visibile da parte dell'universalità degli studiosi, no? Perché documentazione che, diciamo, si è potuta consultare in quanto queste persone erano, diciamo, stati nominati consulenti delle commissioni parlamentari d'inchiesta o periti dei tribunali, oppure pensate allo stesso libro di Pellegrino, che diciamo, è costruito sulla base delle sue vastissime conoscenze di presidente della commissione parlamentare d'inchiesta, ma certo fa appello a conoscenze che sono sue e degli altri componenti della commissione, ma che non sono conoscenze, come dire, che diventano patrimonio comune degli studiosi o che possono diventare patrimonio comune degli studiosi. Altre domande? No, è lei che deve fare il coordinatore. Posso chiedere una cosa? Sì. Facciamo tre insieme così. Sì. Io ho due bellissime domande. Una, alla luce della sua esperienza, quanto in silenzio parli? Gli omissis, eccetera. Uno. Due, data la sua esperienza, il giudizio sul tipo di discorso che viene fatto sia dagli omessi sia da quello che è emerso. È stata chiara questa? Forse sì, ma non so se sono in grado di rispondere. Sul discorso, Se riesci, che non ho capito. va bene. La Allora, la prima prima domanda domanda ho capito, è il significato del silenzio. lei Ho capito. ci hai Poi io altre domande? non ho capito bene il discorso quello verso l'attività fatto. Mi è sembrato di capire che la legge riconosca al governo il potere di comunque ricorrere ai servizi segreti e solo in un secondo momento ci c'è una verifica, tra virgolette, nel senso, in un secondo momento... Sì. Questo nella legge ultima in vigore sul segreto di Stato, no? La 124/2007. È così. Cioè, e solo in un secondo momento c'è un'attività di controllo. Esatto. Mm. Cioè, io non ho capito, non mi era chiaro il fatto... cioè il governo sostanzialmente deve produrre dei documenti relativi all'attività del ricorso ai servizi segreti, non producendoli non riesco a capire come questo organo di controllo riesca di fatto a esercitare la sua funzione. Chiedevo se poteva riprendere un attimo questa cosa. Esistono anche documenti falsificati, oltre che spariscono, oppure sostanzialmente ci sono gli omissi, ma esistono anche documenti falsificati e quindi possono alterare i giudizi storico. Più che documenti falsificati, direi documenti falsi. Falsificati. Esistono situazioni del genere? Sì, sì. Storicamente, non legati al periodo specifico. Sì. Questo tema. Non so se dico una castroneria, però secondo me più che documenti falsi esistono documenti mal capiti. Cioè un documento non è mai falso, un documento è... Cioè qualcuno magari afferma qualcosa per effettuare un depistaggio, per comunicare un'informazione che non è falsa, è un'informazione che vuole inviare un messaggio verso una pista diversa, per cui forse... Canta. Cioè, più che di documento... Non per indirizzare il problema storico in modo diverso. Insomma, parlare di falso, secondo me... Non nel senso che dici tu che è un altro aspetto più temporale, l'altro è più storico. No. Sì, lei fa un'interpretazione sul concetto di falso. Esatto, cioè io volevo disquisire il concetto di falso. Cioè, secondo me non esiste un documento falso. Esiste un documento che chi legge... No, ma esistono anche documenti falsi. Cioè, non è che assolutamente non ci sia. Altra osservazione? Quello che lei ha detto, si evince che insomma, in Italia ha una caratteristica un po' patologica dal gruppo del segreto di Stato. A distanza, per dire, sono passati 20 anni dalla fine della guerra fredda e questo fenomeno ancora persiste. Secondo lei è dovuto a motivi politici o alla carenza di risorse organizzative o finanziarie per, come lei accennava, sull'organizzazione all'interno degli archivi stessi? Una domanda rispetto a quanto diceva all'inizio, al problema degli spazi. Sì. Non sono mai riuscito a capire neanche durante quel tempistica di anni fa, perché un po' di quel fatto storico, purtroppo. Come mai pezzi di fondi non vengano, oltre che conservati, digitalizzati e ci sia una possibilità di consultazione più ampia? Sì. Allora rispondo perché sennò non... Allora, comincio dall'ultima domanda. Perché non vi sia un'operazione di digitalizzazione dei fondi, di interi fondi o di serie archivistiche, cioè di una parte dei fondi? Perché queste operazioni sono impegnative e costose. Digitalizzare migliaia di fascicoli e quindi milioni di documenti è un'operazione molto impegnativa dal punto di vista soprattutto dell'impiego del personale. È stata fatta un'attività di digitalizzazione molto capillare, ecco, diciamo, come eccezione a questo discorso si può ricordare un'attività di digitalizzazione molto capillare che ha investito gli atti processuali relativi alla strage di Piazza della Loggia del 1974. Ora, questi atti processuali sono consultabili presso la Casa della Memoria di Brescia, la Casa della Memoria delle Vittime della Strage a Brescia. Si tratta di diciamo una memoria informatica molto cospicua e non è possibile portarla via, diciamo, conservandola in un DVD o in più DVD o in una chiavetta, perché è stata un'operazione di digitalizzazione condotta in modo capillare. Però per questa operazione, che è stata promossa appunto dai familiari delle vittime, è intervenuto il comune di Brescia, la provincia, e che hanno messo cospicui fondi che il tribunale di Brescia non aveva. Peraltro questa cosa della visione dei fascicoli processuali di un processo che in sostanza è l'unico processo ancora in corso, è un fatto particolare e eccezionale. Cioè la possibilità per voi di andare in un posto, la Casa di Memoria Brescia, e guardare le copie digitalizzate dei documenti originali degli atti processuali è un fatto abbastanza eccezionale. Cioè è eccezionale il fatto che voi possiate farlo senza un'autorizzazione, perché normalmente per consultare carte processuali, anche una volta arrivati al giudizio, cioè una volta una volta passato in giudicato l'evento processuale, occorre un'autorizzazione del presidente del tribunale. Qui addirittura si tratta di carte di un processo ancora in corso. Queste normalmente negli originali non vengono, la consultazione di queste carte non viene autorizzata agli studiosi. Allora, da quello che so, per esempio, i giornalisti, i cronisti di Cronaca Nera, i giornalisti che seguono queste vicende, possono ricostruire le loro diciamo inchieste giudiziarie sulla base di questi documenti, ma documenti conservati dalle parti, cioè il fascicolo di parte. In sostanza molto spesso non è una visione diretta, ma è un riportare quanto viene detto dagli avvocati di parte o dalle parti offese o dagli avvocati difensori. Dunque, poi, quindi questo è un caso abbastanza eccezionale, questo della visione dei documenti processuali presso la Casa della Memoria di Brescia, digitalizzati. Ecco, no, sempre a questo proposito, so che è in corso il trasferimento dal Tribunale di Milano dell'ultimo processo relativo alla strage di Piazza Fontana. L'ultimo processo si è svolto a Milano, quello riaperto a seguito dell'indagine del giudice Salvini e che si è concluso con una sentenza nel 2005, che non è veramente assolutoria, come spesso si dice, non è interamente assolutoria, come spesso si dice. Allora, gli atti di questo processo sono, diciamo, in corso di trasferimento all'Archivio di Stato di Milano. Bisognerà vedere se poi queste carte verranno date in consultazione agli studiosi. Non vorrei che queste carte, che in tribunale potrebbero essere consultate sulla base dell'autorizzazione del Presidente del Tribunale, una volta entrate nell'Archivio di Stato non fossero più consultabili. Non vorrei questo, perché in realtà potrebbe anche darsi questa eventualità, sulla base di uno degli articoli del Codice dei Beni Culturali che dice, una modifica al Codice dei Beni Culturali che in sostanza dice che i versamenti che avvengono anteriori al quarantennio, quindi le carte versate dagli uffici anteriormente al quarantennio, non sono consultabili. Spero che anche su queste carte sia applicato quel meccanismo di consultazione anticipata a cui vi accennavo precedentemente. Sì. Per dire, noi in barba alle leggi. Anche questo fondo è stato digitalizzato, esatto, per altre parti. No, nella dispensa per la prossima lezione troverete estratti della sentenza del 2004, prima che scompaia. Le sentenze sono pubbliche. Le sentenze sono pubbliche. Questo sia che siano versati gli archivi di Stato sia che no, le sentenze sono pubbliche. Il problema è il fascicolo processuale, che poi il fascicolo processuale è in sostanza la pratica del procedimento processuale che si dipana molto spesso per processi importanti in diversi faldoni, in diverse cartelle. Qui non è un fascicolo nel senso classico del termine, si chiama fascicolo processuale, ma in realtà è un procedimento giudiziario che si articola in numerose cartelle. Quindi le sentenze pubbliche, sì, d'accordo, perché per legge le sentenze sono pubbliche. Il problema è la consultazione dei fascicoli processuali. Allora, poi le altre domande. L'uso patologico del segreto di Stato, questa è la penultima, no? Allora, per coprire illeciti e comportamenti, diciamo, non ammissibili, oppure per carenze organizzative? Io direi la risposta è la prima, perché è vero, carenze organizzative e mancanza di risorse oggi coinvolgono anche l'amministrazione attiva. Sapete che insomma, il personale della Polizia di Stato è in uno stato di semisollevazione per il drastico taglio di fondi che ha avuto a seguito delle ultime finanziarie. Però questa mancanza di risorse non credo che coinvolga, se non parzialmente, l'attività dei servizi di informazione e sicurezza. Peraltro, sull'uso patologico del segreto di Stato, che evidentemente ha investito anche l'ultima vicenda del sequestro di Abu Omar, io vi invito a leggere un interessante articolo, per quanto complesso, perché dà come acquisite, diciamo, la conoscenza delle norme processuali, però è comunque leggibile e comprensibile. È un articolo pubblicato su Questione Giustizia, nel numero 2 del 2009, con un precedente in uno dei fascicoli del 2008. Un articolo a cura di Franchiotti, mi sembra che si chiami così, che ricostruisce questa vicenda molto, diciamo, imbarazzante per i nostri governi, per il governo Prodi e per il governo Berlusconi. Dunque, poi un'altra domanda era i documenti falsi, e poi lei interveniva, no, i documenti non sono falsi, sono mal interpretati. No, ma dunque, dal punto di vista diplomatistico è corretto parlare di documenti falsi, ma non nel senso che sono falsi perché non sono quello che dicono di essere. Cioè sono documenti prodotti effettivamente da quell'ufficio o da quella fonte confidenziale. Allora, in questo senso sono documenti autentici, perché provengono da quella fonte confidenziale o da quell'ufficio. Quindi dal punto di vista strettamente diplomatistico sono documenti autentici, non falsi. Però potrebbero essere documenti falsi perché quello che è scritto nel documento o l'informativa che viene data è un'informativa falsa, cioè non corrispondente alla verità. Allora lì si tratta di capire se è un'informativa volutamente falsa oppure perché, diciamo, deriva da millantata conoscenza o da una conoscenza non completa dei fatti. Molto spesso è un'informativa volutamente falsa. E perché è un'informativa volutamente falsa? Perché queste informative utilizzate dai servizi di informazioni in qualche modo erano poi partecipate anche all'autorità politica, e quindi le autorità di governo anche agivano in parte sulla base di input provenienti dai servizi, che però in alcuni casi erano input tendenziosi o falsi. Non so se è chiaro il discorso. Cioè potrebbe esserci una sopravvalutazione di determinati eventi da parte, per esempio, dell'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno, una sopravvalutazione di determinati eventi o una sottovalutazione di altri eventi, sopravvalutazione o sottovalutazione che è orientata a come dire, modificare il comportamento delle autorità governative. E qui entriamo nel difficile tema, tutto da costruire, dei rapporti di reciproco condizionamento o di eventuale condizionamento che anche i servizi di informazione possono esercitare nei confronti dell'autorità di governo, cioè dell'autorità politica, dei ministri. Lei dice i documenti non sono falsi, sono documenti che vanno interpretati. Sì, però dal punto di vista diplomatistico o dal punto di vista delle informazioni che riportano sono documenti falsi. Si tratta di capire perché sono falsi, in quel senso non sono falsi, però sono effettivamente falsi. Allora, poi c'è una domanda, non vorrei farvi perdere troppo tempo, però mi sembra giusto rispondere alle domande. Lei dice, si chiedeva quanto questi servizi e le attività che pongono in essere dipendono in sostanza esclusivamente dall'attività di governo, i documenti che producono e la possibilità di un controllo che viene esercitata solo a posteriori dal COPASIR oggi e prima COPACO, cioè dal Comitato Parlamentare di Controllo. Sì, e le cose stanno in questi termini. Già dalla legge del 77, la prima legge organica sui servizi di informazione, la legge 801 del 77, ha previsto che è il Presidente del Consiglio che ha la responsabilità politica nei confronti dell'attività dei servizi di informazione. Quindi si tratta di un rapporto privilegiato tra servizi di informazione e Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio poi in genere attua una delega di carattere tecnico rilasciata spesso al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, spesso ma non sempre, che funge da autorità nazionale per la sicurezza. Attualmente questa delega è stata rilasciata per esempio dal Presidente del Consiglio al sottosegretario della Presidenza, onorevole Letta. Il rapporto, quindi, un rapporto privilegiato tra l'autorità politica, ma quella di vertice, cioè il Presidente del Consiglio, e i servizi di informazione. Questo perché? Perché già il legislatore del 77, la cosa è stata confermata dall'attuale legge del 2007, ha voluto porre nella piena responsabilità politica del Presidente del Consiglio un'attività così delicata come quella della gestione dei servizi. Questo perché? Perché eventualmente il Presidente del Consiglio avrebbe potuto rispondere politicamente, in quanto Presidente del Consiglio, e quindi politicamente responsabile della maggioranza di governo, di fronte al Parlamento. Quindi vi è in qualche modo un rapporto diretto e di responsabilità politica tra Presidente del Consiglio e servizi, e poi un rapporto che si svolge nelle forme ispettive di controllo tra l'esecutivo e in questo caso la sua struttura burocratica formata dai servizi, SISDE, SISMI, oggi AISI e AISE, e il Parlamento nella persona, nella struttura essenzialmente del COPACO. L'autorità giudiziaria invece è lasciata in qualche modo esclusa da questo rapporto. L'autorità giudiziaria è lasciata esclusa perché l'autorità giudiziaria è possibile, solo la strada dell'interpello al Presidente del Consiglio per la conferma o meno dell'esistenza di un segreto di Stato. Ad esempio, un testimone dice che non può testimoniare su fatti perché sono coperti a segreto di Stato, l'autorità giudiziaria interpella il Presidente del Consiglio, che può confermare o meno l'esistenza di questo segreto. Se conferma, l'unica strada possibile in realtà è quella del conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale, come è stato fatto per esempio in passato e anche recentemente per il caso Abu Omar. In realtà il codice di procedura penale, l'ultimo dell'89, prevedeva che fosse la magistratura a stabilire se determinati reati, cioè quelli non previsti come coperti dal segreto di Stato, i fatti eversivi dell'ordine costituzionale, fossero tali, cioè l'individuazione di questi reati e quindi il rigetto in qualche modo l'opposizione del segreto di Stato. Però questa innovazione ha portato al codice di procedura penale dell'89 e poi è stata subito immediatamente smentita dalle disposizioni transitorie dalle disposizioni transitorie di applicazione del codice di procedura penale del 1989 sempre. Quindi attualmente l'articolo 66 ancora in vigore delle disposizioni transitorie di applicazione del codice di procedura penale inficia la possibilità da parte dell'autorità giudiziaria di individuare qual è la natura del reato, cioè se si tratta di un reato che interviene, che ha questa caratteristica di eversione dell'ordine costituzionale. E ancora una volta, come dire, la valutazione su questo reato è nei fatti demandata all'autorità di governo, cioè al principe in sostanza. E questo purtroppo è confermato anche dall'ultima legge, la 127 del 2007. E sulla prima domanda invece non so rispondere in sostanza, quanto segreto parla, ma questa è una domanda che sarebbe da rivolgere soprattutto agli storici. Io ho più esperienza di archivista, cioè esperienza di archivista, non di storico. Non so rispondere sulla prima domanda, francamente. Mi dispiace, ma non posso dare una valutazione. Però la lascio a lei, in qualche modo, quanto silenzio parla. Silenzio spesso parla. La mancanza di queste fonti ci dice che sono fonti che in qualche modo gettano un'ombra anche di compromissione o di imbarazzo sui servizi che si sono succeduti negli anni 50, 60 e 70 a gestire questo tipo di eventi. Mi spiace. No, va bene, finiamo qua. Grazie mille. L'appuntamento per martedì prossimo, ci sono le firme e le dispense da ritirare. Mi spiace solo di non dobbiamo assolutamente devo chiudere. Grazie mille. Grazie. Volevo chiedere una cosa, questa questione. Questione giustizia, è un periodico. Questione giustizia è una rivista. La potete trovare in università, questione giustizia. La rivista. Sì. Lavoro di sì. Buongiorno. Ah, sì, è vero, sì. La questione.